se generalmente il linguaggio è epidemico, il linguaggio gonfio di retorica è un'epidemia a rapidissima diffusione. Partecipo a un convegno che già nei temi predispone alle formule retoriche, come sempre allorché si parla di scuola, di bambini e di valori veri da contrapporsi chissà in virtù di che criterio a quelli falsi. Si parla di scuola e di sport. Si parla del riconoscimento che meriterebbe l'attività motoria ai fini della formazione dell'individuo e dei rinnovati tentativi di far fare dell'attività sportiva ai ragazzi nelle scuole. Ovviamente si parla anche della necessità di aggiornare gli insegnanti e di far sì che gli istruttori nelle società sportive siano all'altezza del loro compito. Una relatrice a un dato momento dice che è importante che i nostri figli non vadano a finire in mano a dei macellai. La metafora truce, direi, coglie nel segno, come poteva non coglierle. Tant'è vero che il relatore successivo la riprende almeno parzialmente. Si dice preoccupato del fatto che a mettere su una società sportiva dove i giovani dovrebbero divertirsi e crescere sani può anche essere il macellaio del paese e che dunque occorreva stare attenti, controllare la formazione del personale, stabilire regole chiare per dare il via alla collaborazione tra mondo della scuola e mondo dello sport. In un modo o nell'altro, la temibile figura del macellaio caratterizzava insistentemente la dialettica del convegno. Alla mia curiosità di epidemiologo del linguaggio non era sfuggito il carattere evolutivo della questione. Infatti, risfogliando gli appunti presi durante un convegno di 18 anni fa, più o meno sui medesimi argomenti, Ho trovato le medesime formule retoriche, giurerei anche le stesse pause, le stesse enfasi nel pronunciare le parole, nonché la stessa attesa dell'applauso popolare, no? Ma con una minima e significativa differenza. Non si parlava di macellaio, ma di salumaio. Il pericolo era costituito dal salumaio, era lui che poteva mettere su una società sportiva ed era sempre lui che avrebbe potuto distorcere irreparabilmente la sana crescita dei nostri figli. C'era da interrogarsi sulle cause di tale cambiamento. Durante il convegno mi abbandonai perciò alle più fantasiose ipotesi. Mi dissi che ogni contesto culturale poi produce i suoi paradigmi, così come in una certa sociologia spicciola ci si riferisce alla casalinga di Voghera, mitica figura che riassume in sé gli stigmi più evidenti della riottosità ad ogni evoluzione linguistica, così nella psicopedagogia sportiva ci si riferisce a figure professionali intente più, diciamo, più alla carne che allo spirito. Dagli insaccati alle bistecche e dagli spezzatini poteva costituire una maggiorazione dei toni dell'enfasi, come il passaggio, che so, dal prefisso super al prefisso mega nel caso di certe aggettivazioni. Il salumaio taglia ciò che è già passato per le mani del macellaio. L'operare del primo è asettico al confronto della brutalità del secondo. Dare a qualcuno del macellaio, anche a prescindere dalla varietà merceologica presente sui rispettivi banconi, è molto più forte che dargli del salumaio. Ecco dunque che all'usura di un termine si risponde passando ad un secondo termine che del primo sottolinei ulteriormente la connotazione. Concluse le relazioni, come in ogni convegno che si rispetti, si è aperto il dibattito. Ho potuto così tastare il polso della base, sapere cioè cosa si aspettano dalla novità sia i professori di ginnastica che gli istruttori delle società sportive. Tuttavia, come nella maggior parte dei dibattiti, soprattutto quando si avvicina l'ora del pranzo, l'interesse andava pian piano scemando e il mormorio della disattenzione cominciò ben presto a sovrastare la voce degli intervenuti. A ravvivare la situazione ci pensò allora un distinto signore con un bel paio di baffi chiari. Si è alzato, è andato al microfono e ha esordito dicendo: mi chiamo tal dei tali, sono presidente della tal società sportiva e di mestiere faccio il macellaio. Tutti i partecipanti al convegno allora hanno riso di gusto, gli hanno tributato un caloroso applauso. Parlando forbito e con rara sennatezza, poi costui ha proseguito il suo intervento. Ma a me è rimasto il dubbio circa il suo esordio. Era davvero un macellaio o, meno semplicemente, aveva fatto questa dichiarazione per ottenere l'attenzione e la simpatia del pubblico? Alla chiusura del convegno non ho avuto il coraggio di andarglielo a chiedere poco dopo, uscendo per tornarmene a casa, uscendo all'aperto, svoltando la prima destra in cerca della fermata dell'autobus, il mistero per me mi si è fatto ancora più oscuro. C'era un cinema dopo una ventina di metri e dai numerosi manifesti un'alba Parietti imbrunita e tutta siliconi al vento mi avvisava che lì, in quel locale, si proiettava per l'appunto Il macellaio, film di sesso e frattaglie tratto dall'omonimo romanzo di Alina Reyes, a dimostrazione comunque che a volte nell'epidemicità dei fatti linguistici l'infezione è rapidissima.